mesetto che non vi sentivo, dopo vado in astinenza, ho bisogno di chiamarvi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il quale si è presentato in studio oggi, sì, con le scarpe rosse. Sì, sì, sì, sì, sì, perché mandava meravigliose scarpe rosse. Adesso vediamo come grande ottimismo. Ne abbiamo bisogno, sì. La Juventus ne sta spendendo anche un sacco. Io avrei anche bisogno di sentire, sto accendo. Non senti. Ecco, no, ma non è grave. Voi, portate, mi sentiate voi, a parte che se anche non mi sentite, diciamo, non vi perdete molto, nel senso che insomma la qualità. Però direi che non sento nulla. Va bene, adesso risolvo questi problemi di regolazione. Vedo De Luca preoccupato. De Luca quelli. Subito che accorre, come fosse, non so, il dottor Alicicco. Niente, proprio non gliene può fare. Ah, sta bene il caffè. Allora, che il conduttore non senta, allora lo consideriamo un dettaglio, lo consideriamo un problema. Gira quei bottoni. Li ho girati tutti, va bene, chi se ne. Ecco, era. Hai visto che hai trovato il bottone magico. Sì, è ottimismo, essere benessere, cuore denari, sì, tutto quello che vuoi. Io ci credo, scrive Allegri, certo. Tweet Allegri, fino alla fine, tweet ufficiale della Juventus. Dybala, anche lui, insomma, possibilista quantomeno in vista del viaggio della speranza, non a Lourdes ma a Monaco di Baviera. Sinceramente, sapevamo che il Bayer ci poteva fare male perché è una squadra che ti porta dentro l'area, però anche noi, penso, nel primo tempo abbiamo avuto delle opportunità per fare il gol. Dopo il secondo gol siamo usciti un po', no? da nostra metà campo, e penso che abbiamo fatto sbagliare un po' il buzzer che ci ha portato a fare il pareggio. La prossima partita possiamo fare il risultato che vogliamo, no? Se giochiamo con questa voglia, con questa grinta che abbiamo fatto nel secondo tempo, penso che con umiltà possiamo fare anche del male noi al buzzer. Il buzzer fa ridere. Però se tu fossi un atleta professionista, un agonista che viene da una partita come quella che la Juve ha giocato col Bayern, è ovvio, no? Perché non dovresti crederci? No. La Juve negli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, ha messo sotto il Bayern, l'ha messo sotto con doti che sono diverse da quelle con le quali il Bayern nei 60 minuti precedenti aveva messo sotto la Juve, ma che alla fine sono valsi comunque due gol, per cui è ovvio che... No, ma poi sai, ci sono anche queste parole di Guardiola, la Juventus vale come il mio Bayern, voi italiani non me ne rendete conto, non sono mai stato così contento di una mia squadra in carriera. Ha speso un sacco di miele, ha versato un sacco di miele Guardiola sulla Juventus. Sì, ha versato un sacco di miele, ha confermato di essere soddisfatto del risultato. Io l'ho visto proprio in zona flash ed era molto, molto sereno, molto tranquillo. Cioè il risultato gli va bene, però insomma secondo me qualcosa comunque in quell'ultima mezz'ora è successa. Non si può far finta di nulla, non possono far finta di nulla nemmeno, certo, nemmeno i tedeschi. E questa cosa un po' inaspettata, un po' sorprendente, è la benzina per la speranza della Juve. Poi appunto mancano 20 giorni, per cui figuriamoci, da qui a 20 giorni tante cose possono cambiare, fortuni, tante scintille. Chiellini rientra, Chiellini e Asamoah rientrano con l'Inter, quindi... Però insomma, meglio un 2-2 così che un 2-2 subito in rimonta, sinceramente. Assolutamente. Poi però leggi i risultati di Dinamo Kiev e Manchester City 1-3 e tornano a girarti le balle per come certo. È andata a Siviglia. Però, senti, altro tema, poi ne parliamo, parliamo anche di Guru Guardiola dopo il GR delle 15 con un ospite, Guardiola che ormai è diventato un santone, una specie di Phil Jackson del calcio. Comunque, ma tu mi spieghi perché hanno attapirato Insigne? Ben sentiamo. Senta, siamo venuti a portarle questo tapiro d'oro perché abbiamo visto l'ultima partita. Insomma, lei ha fatto questo gol che pensavo probabilmente avrebbe risolto la situazione con il Milan. Poi invece in realtà il Milan è riuscito a riacciuffarvi. Sarà tapirato per questo. Speravate di vincere? Sì, speravamo di vincere, però è andata così e... Come detto, noi ci aspettavamo un Milan diverso, però noi abbiamo fatto la nostra partita, ce l'abbiamo messa tutta e ora speriamo di rifarci la prossima partita. Ma diteci anche voi, cari ascoltatori, 80024. Mi sembra un po' troppo il tapiro per questa cosa, no? Appunto, ma sono, tu sono che sei uomo di televisione, beh, cioè, se no. Tapiro Insigne perché ha pareggiato col Milan. Però ti dico questo, il tapiro fa sempre bene. Il tapiro è terapeutico, sì. Corregge e salva, salvifica dai peggiori mali, dalle peggiori colpe. Io fossi nell'ufficio stampa della Roma, chiamerei Staffelli. Chiamerei Staffelli, gli di presentarsi tutti, con due tapiri e fare una grande cosa in pompa magna con, cioè, con lui, Totti e lui, Totti e Spalletti, e la chiudono in 5 minuti con stile, con classe. Ovviamente, se la sostanza è ricomposta dal punto di vista poi appunto della verità delle cose, quella è la cosa migliore. Magari ci avranno anche pensato, non lo so. Comunque glielo diciamo pubblicamente. Potrebbero attapirare anche Simeone, che ieri sera ha pareggiato 0-0 con il PSV Eindhoven ed è stata l'unica squadra spagnola su 7 a non vincere nelle gare di andata. Penso che al di là di questa fase difensiva che oggi è stato come il solito, come la squadra lavora in la Liga, credo che la partita l'abbiamo fatto molto bene. Oggi non devo dirle assolutamente niente ai ragazzi. Abbiamo creato 4 palle gol troppo importanti, la di Coque, la di Griezmann, la di Vieto, la di Torres, la di Correa, la palla non ha voluto entrare. Questo è parte del gioco, però l'importante è lavorare in conseguenza di generare questo, e io sono contento perché il lavoro si è fatto. Sì, intanto l'unica che ha pareggiato 0-0, bilancio delle squadre spagnole 6 vittorie, un pareggio, appunto quello di ieri, 15 gol fatti, 0 subiti, qualcuno li fermi? Abbastanza, sì, abbastanza impressionante. Sta diventando insopportabile. Abbastanza impressionanti, e devo dire che per esempio invece l'Inghilterra mi sembra in difficoltà. L'Inghilterra, nonostante i soldi di questo contratto televisivo, i cui effetti probabilmente si cominceranno a vedere l'anno prossimo, mi sembra un calcio in una fase di legittima, fisiologica, corsi e ricorsi storici, insomma ci sono cicli nella storia di qualsiasi situazione umana, però mi sembra una squadra, un paese un po' in difficoltà da questo punto di vista. Le storiche grandi soprattutto, cioè Manchester United, insomma l'Arsenal, al di là del fatto che negli ultimi anni ha vinto poco, ma è in questo momento seconda in classifica in Inghilterra, siamo al Tottenham dietro a un outsider come il Leicester, ed è stata spazzolata e perde in casa male col Barcellona. Quindi insomma, francamente, allora, penso passerà soltanto il City. Ovviamente il Chelsea ha delle possibilità al ritorno. Il Chelsea è 50-50, non tantissimo il Chelsea, secondo me. Beh, 50-50, Non lo so, forse qualcosa meno. 800-24-0024. Poi, dopo la borsa, così faccio un riassuntone degli argomenti della puntata. Parleremo anche con Marco Berinazzo. L'Inter è in vendita o no? Toir la vende oppure no? Sono curioso di capire. Oggi compare con grande risalto ovunque questo. Ti lascio con questo messaggio. Ma voi due come vi ponete nei confronti della legge sulle unioni civili? Siete fedeli reciprocamente o no? Se siamo fedeli? Radiofonicamente siamo fedelissimi. Fedelissimi. Sì, no, io sono favorevole. Sono favorevole alla legge. Molto bene. Traffico. Tutti convocati. Convocati. Guarda, occhio non attapirarti oggi con qualche rissa a maggioranza assoluta. No, messaggio no, WhatsApp. Non c'è paura, non c'è pericolo. No, siamo peggio di tutto sport, ci scrivono. Siamo peggio di tutto sport. Stiamo leccando il culo ai gobbi, dice un signore alle 14:11. L'Inter quanto sta al chilo? Non dobbiamo. Poi lo chiediamo a Berinazzo quanto sta l'Inter al già chilo. Già vedo PSV Juventus ai quarti, ci scrivono. Te l'ho detto, c'è grande ottimismo. C'è grande ottimismo. No, ma questo secondo me, uno che dice già vedo PSV Juve ai quarti è un non juventino. È un non juventino. No, che dice la Juve passerà il turno e poi avrà il culo di giocare contro gli olandesi. Io anche, va bene, ma allora facciamo giocare la partita a cominciare dal 70° minuto, perché quello che ha fatto il Bayern prima non conta. No, conta tantissimo. Conta tantissimo. Ragazzi, adesso scusate, riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo passato mezz'ora ieri, ribadisco, il Bayern ha dimostrato di essere nettamente superiore alla Juve. La Juve però ha dimostrato di avere delle risorse per provare a metterlo in difficoltà. Tutto qui. Cioè, poi è ovvio, io sono il primo a dirti che a proposito della possibilità di giocare una partita diversa, che dicevamo, no? Ma perché la Juve non ha giocato prima una partita diversa? Io ho detto che secondo me se la Juve avesse giocato prima una partita diversa probabilmente avrebbe rimbarcata, perché se tu avessi affrontato in maniera champagnona sullo 0-0 il Bayern probabilmente avresti fatto probabilmente l'errore detto capitale. Detto questo i primi 60 minuti sono stati un massacro. Ma guarda, chiediamo a Nanu Calderisi. Certo, che era allo stadio. Ciao Nanu. Ciao Nanu. È presente, convocato, presente. Buongiorno a tutti, come state? Ciao. Bene, bene. Molto bene, c'è anche Massimo Zampini. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio a voi. Come, no, che è questo entusiasmo, Zampini? Calma. Io ho un'idea su come affrontare il Bayern Monaco a Monaco. Prima si passa dalla Basilica con un grande cero, poi si va in campo e quando loro hanno la palla ci si butta per terra in ginocchio e si prega. Marienplatz. Questa è un'analisi tattica. Ma non esagere, stiamo parlando dei vice campioni d'Europa. E se invece Allegri pensasse a tenere più bassa la linea difensiva, perché è stato straripante quello che ha detto Pierre, è giusto. Cioè, a un certo punto, per maggior parte del primo tempo, l'ultimo giocatore, in molti casi era proprio Vidal che chiudeva il difensore, era tre quarti campo, sì, qua, sì. Ciò significa che avevano ancora 20 metri davanti. Io, se fossi, adesso si fa per parlare, perché tanto vuol dire che un Bayer così non si può contrastare, perché i primi 60 minuti è stato devastante in tutto e per tutto, ma non mi abbasserei con gli attaccanti, ma allungherei la loro difesa, cioè metterei un giocatore più alto possibile, quasi a fare il pazzo fuori dagli schemi, perché correre dietro e raddoppiare ci vuole poi la forza e i tempi di gioco per arrivare a 70 metri lontano per arrivare a far gol. Sì. Questo significa che secondo me la Juventus sta preparata in un modo che secondo me ha dato forza. Tu hai capito quali sono i punti deboli del Bayern e quelli su cui lavorerà l'altra sera? La difesa, poi fra 20 giorni magari qualcosa cambierà, ci sarà qualche recupero. Ragazzi, l'altra sera comunque sia la Juve le occasioni le ha create. Sì. Cioè la Juve ha creato il presunto rigore del primo tempo, il rigore contestato del primo tempo, e due gol più la palla gol di Quadrado, c'è cioè qualcos'altro che mi scordo? Sì, cioè, anche quella ripartenza di Mandzukic, che invece di tirare di sinistro avesse visto l'arrivo di Bala, sarebbe stato veramente una grande occasione. Ma è la profondità che la Juventus deve cercare, perché il fraseggio per uscire il Bayern non te lo concede. Perché ti aggrediscono in che modo... Che sono più bravi loro, dai. Quindi, sì, ma su quello non c'è discussione. Si è visto completamente, ma in modo molto netto e chiaro, che loro avevano veramente spavalderia, perché si sentivano forti, ma perché avevano anche un'organizzazione di gioco. Le catene sugli esterni sono state meravigliose e poi non ti davano punti di riferimento. Müller non sapevi mai dove era. Indietro i tre giocatori che rimanevano, uno andava a giocare in mezzo al campo, in una zona del campo dove non c'erano giocatori del Bayern. Sì. Il Bayern erano tutti a sinistra, a destra, due davanti, tre dietro e uno in mezzo, tanto per dire aspetta che c'è la ricaduta. Ma come perdevano palla, stringevano e aggredivano in avanti, e piano piano la Juventus, secondo me, è partita con la voglia di fare la partita, ma poi non aveva la forza, un po' di paura nel freddeggiare e nel trovare il tempo di gioco. Non ti sentiamo più, aspetta un attimo, Nano. Massimo Zampini, ma da tifoso le capisci tutte queste cose quando guardi la partita? Sì, diciamo, era abbastanza facile capire l'altro giorno, perché appunto abbiamo detto tutti, è una delle partite penso più facili da interpretare, perché divisa in due così ne ho viste poche, ovvero sia un'ora veramente schiacciante, ma non solo e non tanto nelle occasioni, quanto effettivamente nel non riuscire a uscire circa dalla metà campo ed essere sempre sotto pressione, larghissimo, il Bayern complicatissimo con inserimenti centrali e poi due larghi che ti fregano sempre, quindi è una partita infernale. Poi l'ultima mezz'ora, devo dire che non va dimenticata, perché comunque è un terzo di partita, non è un dominio, ma è un aiuto che effettivamente attacca di più col Bayern, anche un po' spaventato, tra virgolette, usiamo questa parola, e fa parte anche quello della partita, però non è che fossero in 10, 9, sì, no, no, non è un dominio, ma è un blitz, è un golpe, è una tattica diversa, è una partita che improvvisamente diventa battaglia, guerriglia, sportiva ovviamente, ed è una chiave. Io non credo che la Juve abbia le risorse per poter fare quel tipo di partita per 90 minuti, non ce l'aveva a Torino, ce l'avrà ancora di meno, figurati a Monaco, però ecco che ci possono essere degli spezzoni di partita in cui tu puoi fare quello. In fondo, noi, se pensiamo alla finale di Champions League, che è la cosa più simile a Juve-Bayern secondo me dei tempi recenti della Juve, vediamo una partita nella quale nella prima mezz'ora non hai toccato palla, sei andato sotto 1-0 e rischiato di andare 2-0, e poi però con lo stesso tipo di atteggiamento per una ventina di minuti hai messo sotto gli avversari. Anche quel Barcellona comunque ti ha concesso il gol, anche quel Barcellona comunque non è sembrato completamente impenetrabile in difesa. E poi è andata male, ed è anche giusto, perché chiaramente il Barcellona era più forte. Però, insomma, nei 90 minuti ci sono dei momenti e delle situazioni nelle quali puoi essere tu quello che crea. Nanu, tu la palla quando giochi contro Guardiola gliela lasci. Io rimango convinto che il grande capolavoro di Mourinho fu la partita di ritorno a Barcellona nell'anno del triplete. Cioè, la palla a chi fa questo tipo di gioco la lasci, però devi essere estremamente attento, concentrato e pronto fisicamente. Ma secondo me non puoi decidere se l'assaggiano o no, questi se la prendono. Puoi fare il figo e dire che gliela lasci tu, dai, sì, no, ragazzi. Puoi, ah, ma divertite. Puoi anche dire, no? Tenete la palla e veniteci contro, come aveva fatto Mourinho. Ma non hai alternative. Credo che abbassandosi troppo, effettivamente questi hanno capacità tecnica, poi hanno una velocità di palla, di qualità di palla, hanno un pensiero veloce, a me hanno impressionato. Io da allenatore dall'alto era talmente lampante quello che si vedeva, che mi ha veramente impressionato tutto questo. Però devo ammettere che la reazione della Juventus è stata una squadra che non ci stava, ma era sul suo campo, con una tifoseria, con uno stadio che a ogni contrasto si esaltava, ma questo è capitato per 10-15 minuti. Io credo che qualcosa Allegri si deve inventare, le caratteristiche sicuramente devono essere specialmente davanti, di gente che ha gamba, alla Cuadrado, alla Morata, per attaccare gli spazi, e deve avere veramente più coraggio nel ricercare subito la profondità. Non ci vuole tanti tempi di gioco, ce ne vuole due profondità, e dobbiamo allungarli questi tedeschi, perché se li accorci loro nello stretto hanno velocità e qualità, e poi hanno due giocatori davanti che secondo me si trovano sempre dove devono trovarsi e ti fanno del male, insomma. Sì, Massimo, io sono molto ottimista per il recupero anche di Alessandro, che giocherà contro l'Inter. Ah, sì. Perché secondo me uno dei problemi del Bayern, soprattutto in difesa, può essere la tenuta sugli uno contro uno di giocatori abili nello stretto come Alessandro e Cuadrado. E Dybala, ovviamente. Cuadrado l'altra sera un po' intermittenza, però questi sono giocatori che possono far male agli altri. Sì, questo è interessante. Col Porto l'anno scorso, il Porto batté nettamente il Bayern all'andata, Alessandro fu abbastanza devastante. Poi di ritorno, dopo 20 minuti, erano 3-0, potevano essere 5-6-0, quindi poi il Bayern se si arrabbia, a Monaco c'è poco da fare. Però sono d'accordo con te, cioè Alessandro e il Cuadrado sono due che possono allungare anche un eventuale contropiede, o comunque se lasciassero qualche spazio possono sfruttarlo, e anche nello stretto possono essere pericolosi. L'altro che deve giocare, sono d'accordo anche qui, credo con Nanu, è Morata. Secondo me là, mentre io considero la coppia di Balamandzukic pressoché perfetta, di queste storiche della Juve, come Tevez Llorente fino a Simo Richards, senza esagerare nei paragoni, però il genere, l'attaccante forte, quello tecnico, credo che Morata invece debba esserci, perché il Champions è magico, ogni palla che tocca diventa un assist, un gol, e anche perché, tranne a Siviglia purtroppo, e negli spazi Morata è quello che va via e poi è difficile riprenderlo. Ovviamente Dybala e Mandzukic farebbero un po' più fatica, quindi certo. Secondo me Morata, forse accanto a Mandzukic. Siamo tutti d'accordo su Morata per il ritorno, Pier? Bah, no, io preferisco Mandzukic. È vero che Morata è entrato benissimo, e Morata io ha fatto Morata Mandzukic metterei. Ah, tu Morata Mandzukic? Dybala? Io faccio entrare Dybala al 60esimo. Come a Manchester. No, Dybala in campo anche con una gamba sola, e Mandzukic a fare l'enorme lavoro che ha fatto l'altra sera, che sta facendo. Allo stadio a Piani c'è la foto del Nanu in tribuna, mi faccia la cortesia di ringraziarlo per quanto fatto per il calcio Padova e Padova città. Torna Nanu. Salutiamo anche il fiume Bacchiglione. Torna Nanu a Padova, torna! Giocatore del secolo, una delle più grandi soddisfazioni che un ragazzo. Sì. Giocatore del secolo. Ah, no, è incredibile, ma è vero. Il Paron Rocco, allenatore del secolo, e Galdri Giuseppe, giocatore del secolo. Ora, questo secondo me vale più di qualsiasi gol, qualsiasi bella stagione che uno possa fare, perché si valuta non solo il giocatore, ma anche l'uomo, e questo mi rende veramente orgoglioso. Ma a parte questo, io da attaccante non abbasserei mai la mia corsa verso verso i miei compagni, mi allungherei sempre, e nell'allungare, nonostante Manzo, secondo me è un giocatore meraviglioso, perché quando gli è andato il sangue agli occhi, ogni palla, ogni metro era una battaglia, ma la profondità come te la può attaccare un Cuadrado o un Morata, lui non la può fare per caratteristiche, ma neanche Dybala lo può fare. Quindi tu faresti, perché... che faresti, Morata Dybala? Sì, io Dybala lo terrei sempre, perché è un giocatore che tra le linee può far male, ma qui le linee sono basse, certo. ci vuole il tempo di gioco per mandare dentro la forza, la qualità di queste caratteristiche che hanno lì davanti. Io ho visto in difficoltà il centrocampo, ho visto un Khedira, un Khedira veramente con un passo diverso. Mi dite una cosa su Hernanes, perché a me è sembrata la sera del riscatto di Hernanes, cioè mi sembra che Hernanes, che sta facendo una brutta stagione, inutile nasconderlo, poi era praticamente... Però l'altra sera tirato fuori dal freezer. Mi è sembrato però un giocatore l'altro giorno, mi è sembrato un giocatore che è stato in crisi, ma che ha comunque quella personalità, quell'abitudine a fare anche il regista, a prendere per mano la squadra, perché in effetti l'ha fatto in alcuni momenti della sua carriera, lo sanno bene i tifosi della Lazio, che onestamente Marchisio l'altro giorno non ha avuto. Poi Marchisio non stava neanche benissimo fisicamente. Sì. Io penso che, allora, non era un cambio che io avevo messo in preventivo, ma penso che sia stato è dovuto dall'infortunio a Marchisio. La bravura di questo ragazzo, secondo me, è che, a differenza degli altri centrocampisti, nel momento che avevano pressati, nel momento anche di grande pressione, di grande spavalderia del Bayern, lui è riuscito a tenere palla e a saltare gli uomini in mezzo al campo. Lui o si faceva far fallo o riusciva a uscire con la sua col suo di gestire la palla, perché Khedira prendeva la palla e veniva aggredito, ma non aveva la capacità di saltare l'uomo. Marchisio uguale, mentre lui in mezzo a due o tre qualche volta è uscito e ha fatto ripartire un'azione, che è poi quello che serve nel calcio, saltando l'uomo, mettendo in movimento sia da una parte quadrato o dall'altra parte. E secondo me, io aggiungo, questo dice Nano, che anche nel clima allo stadio, dopo un po' di depressione per come andava la partita, e anche per il cambio Marchisio Hernández, che la gente non comprendeva, se non ovviamente sapendo che Marchisio non stava bene, però sapete, non c'è grande fiducia verso Hernández dei tifosi, e invece lui ce l'ha proprio presa subito e l'ha data anche agli spettatori, perché dall'inizio, provando a saltare nel nugolo di gambe 3-4 volte l'avversario, ha preso falli, ha fatto ripartire l'azione. Sì, ma è anche cambiata psicologicamente. Assolutamente, soprattutto psicologicamente, cioè ha avuto la forza di cercare delle giocate importanti, cosa che prima non c'era. Poi probabilmente anche perché era cambiata la partita, però mi sembra. E comunque rimane il fatto che adesso, Pierluigi, dopo che i tifosi non capiscono, ma Allegri, quando mugugnano, ma cosa sta facendo? Eppure non ne sbaglia una. Grazie Nano Galdirisi, grazie Massimo Zampini. Ci sono i reazionari, perché prima leccavamo, sembrava tutto sport, adesso invece ci dicono che è un massacro, ma quante occasioni da gol reali ha avuto sto Bayern. Decidetevi, e poi se volete andare alla Radio Maria, vabbè, andate, fate una gita, poi tornate, tanto adesso abbiamo la borsa. Aspetta, sì. Dai. Sì. Bayern nettamente superiore, da malafede. Vabbè, ok. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Sempre Luigi, una delle cose che mi divertono di più facendo queste trasmissioni qui, quando cercano di sfrucugliare, di cercare di individuare, di indovinare il tuo tifo, il tuo orientamento. Ci fosse una volta che ci beccano. No, ma qua adesso per esempio, adesso sai che c'è stato quei tre minuti, per tre minuti abbiamo detto forse cose considerate, esatto, anti-juventine, ma detto il siamo antiche. Adesso invece siamo tornati a dove è Loredana, Luisa, Mauro Luisa. Dice continuiamo a risaltare la Juve, vergognatevi. Poi aspetta, c'era un altro Juve Channel. Dove era Juve Channel? Aspetta, arrivano tanti di messaggi. Anzi, vi ringraziamo tutti, sono tutti ben accetti. Ci mancherebbe altro. Ci prendiamo dai microfoni di Radio 24, ma non da gente. Juve Channel. Tu sei uno svergognato rubentino, secondo Liana di Prato. Ma poi c'era anche uno Juve Channel. Vabbè, insomma, comunque, adesso c'è stata una fase in cui, ecco, sì. Luisa la Modena, e quindi Luisa un sacco di donne ci seguono. Questa è una bella notizia. Questa è la grande notizia. Salutiamo e mandiamo un forte abbraccio a tutte loro. Ti dico la verità: questa è anche la classica partita nella quale, secondo me, può capitare di dire cose che sono apparentemente in contrasto, perché la partita sarà un controsenso. Perché ribadisco, per me il Bayern, l'ha detto Nano Galderi, ma l'ha detto pure Allegri, cioè il Bayern è stato nettamente superiore alla Juve, però la Juve è un dato di fatto assoluto. Come dicevo prima, e non credo ci sia una contraddizione, ha creato 4-5 palle gol, ha qualche episodio arbitrale sul quale recriminare, e ha dimostrato negli ultimi 20-30 minuti che può provare a mettere in difficoltà il Bayern. Poi se questa cosa qui significa che nei primi 10 secondi sono stato contro la Juve, negli ultimi 10 secondi Juve Channel, sarà così. Per me è invece la fotografia della partita, la partita dove la Juve non ha toccato palla per 60 minuti e poi per 20 minuti ha fatto due gol, ha costruito un altro paio di occasioni importanti e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà il Bayern. Ragazzi, per me è così, poi... Vale, che dici tu, gente? Io dico che voglio sentire Maurizio. Sentiamo Maurizio. Buongiorno. Ciao Maurizio. Come stai? Sai che stasera gente con Cappello a Pavia, una bella serata, parlo del settore giovanile. Sì. Con Fabio Cappello. Fabio Cappello. Salutiamo. Dica Maurizio. Pronto? Dica Maurizio. No, volevo semplicemente intervenire su sulla partita, io sono super juventino proprio, sì, bianco-nero. E niente, volevo soltanto, poi sentivo parlare sempre di rimpianti di Siviglia, nella vita i rimpianti non si devono avere, bisogna solo, ecco, ripartire da quella parte di partita che la Juve ha giocato bene sostanzialmente. Sì, no, ma non parliamo di rimpianti. Ah, il rimpianto vero è leggere questo risultato. Dinamo Kiev Manchester City 1-3. Lei sa a cosa mi riferisco, a quella partita sbagliata dalla Juve, l'unica della stagione che poteva disegnare un cammino diverso. Non ha detto ovviamente che avrebbe preso la Dinamo scarica, però poteva essere qualcosa di certamente più morbido. Giuseppe da Padova, mentre c'è il nostro fedele ascoltatore Giuseppe che ci informa che, non è lei Giuseppe da Padova, ma un altro Giuseppe credo, che ci informa che di Totti a Radio Maria se ne parla assai oggi. Noi invece glisseremo, tra poco parliamo di Inter e denari. Giuseppe, buongiorno. Ciao grandissimi, allora, ma che bella trasmissione, alla faccia di tutti quelli che scrivono i messaggi. No, mi diverto, è una trasmissione meravigliosa, è fantastica, è bello sentirvi parlare di Napoli, di Inter, di Milan, di Juve, io sono juventino. Un saluto al Nano e forza Padova sempre. E Pierluigi, ti prego, non darmi indicazioni della trasmissione del giorno prima, perché me l'ascolto dopo che vado a correre col podcast. Ah. Okay. Pronto? Perché sì. Prima lui ha fatto ieri abbiamo detto questo, ieri abbiamo detto l'altro. Hai ragione, scusa. Dai, che lui non perdetevi l'ultima settimana, l'ultima settimana è bellissima, non vi dico nulla, non vi svelo nulla, ma scaricate perché poi quando è successa quella cosa, gente, ognuno ha i suoi piedi, io vado a correre alle 7 stasera, vi ascolto quella di ieri. Perfetto. E non fate così, se no uno si perde dopo. Tra l'altro possiamo come finirà stasera Juve Bayern, possiamo chissà. Dare i risultati però? Possiamo, no, risultati. I risultati li puoi dare tranquillo, non c'è nessun problema. Allora, io martedì ero allo stadio. Sì. Okay? Allora, tutto quello che avete detto è giusto, soprattutto in particolare quello che ha detto Pierluigi e quello che hai detto tu, Carlo. Non ha giocato male la Juve, aveva paura. La Juve non è riuscita a giocare perché è stato mostruoso il Bayern. Beh. Nella velocità di palla, nella tecnica e tutto quello che ci andava. Poi è successo qualcosa, che forse un calo o non calo, abbiamo dimostrato che anche noi possiamo mettere in difficoltà, come voi avete già ribadito in più occasioni, con i vari interlocutori telefonici, anche si potrà provare a mettere in difficoltà il Bayern, come abbiamo fatto nella finale di Champions. Però una considerazione la devo fare. Il Mario Mandzukic ha fatto una partita da 12 in pagella, cioè ha fatto sportellate, gli mancava un guardialino e il quarto uomo, poi aveva fatto sportellate con tutti. Per come la vedo io, a Monaco bisogna andare a giocare con il famoso 3-5-2. Sicuramente è difficile, Allegri non sbaglia un colpo, non sbaglia un cambio, non sbaglia niente, riesce a portare a casa sempre il risultato nel massimo livello. Però a Monaco bisogna andare lì col 3-5-2. Se vai lì con lo stesso posizionamento dei giocatori che ha avuto credo a Torino, credo lo farà tanto lo, più me credo. Lo auguro, ecco, questa è l'unica considerazione da mero ignorante in materia, ma credo che sia l'unica, perché arrivi lì con il famoso Alessandro e Quadrado, arrivi lì, te la giochi, se sono più forti loro come hanno dimostrato di esserlo, credo che sia la cosa più importante. Un'ultima cosa, poi lascio spazio anche agli altri. Non mi è piaciuto Robin in un frangente, non so se della TV si è visto, ma io ce l'avevo proprio davanti. Non so se vi ricordate, nel finale della partita salta Evra che in scivolata lo manca completamente. Poi la palla si ferma pochi metri dopo in una fuoriuscita. Robin, tornando indietro, guarda Evra, gli sorride e in inglese gli dice un qualcosa. E tu l'hai notato in telecronaca? No, non hai notato? Francamente no. Ci sta anche il trash talk da campo. Quello, poi tra l'altro vi ricordo che quello che succede in campo rimane in campo. No, non riapriamo questo dibattito. Ti prego. No, però ci sta, secondo me, adesso. Ma sì, ci per sta, carità. Ci sta il trash talk. Poi sappiamo che Robin comunque è uno a cui piace deridere e irridere anche l'avversario, ma ce ne sono anche dall'altra parte. Poi ci saranno incontrati quante volte nella vita Robin e Evra? Una cinquantina, quindi, facciamo 50 quindi, tra nazionali e magari cose varie. Fabrizio, pronto? Buongiorno. Sono fiero di parlare con voi. Anch'io, è da anni, anche noi. Anni, anche noi siamo veramente. Ma che è il momento, il momento fan, bellissimo, bello. Io, cioè, i gruppi in questo quarto d'ora, vai. Totti a Radio Maria, senti questo messaggio, sì. Totti a Radio Maria, Totti a Radio Maria, è ovvio, tra virgolette, quando il mondo non mi vuole più, mi rivolgo al buon Gesù. Adesso rischiamo la blasfemia, lasciamo perdere. Esatto. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io ho notato questo, che quando loro, diciamo, i 60 minuti che avevano la palla, secondo me avevano troppo spazio, nel senso che avevano tutto il tempo di controllare la palla. Cioè, ogni passaggio, è vero che giocavano in velocità, però se ci fate caso, sia Evra a sinistra che Lichtsteiner, i loro attaccanti avevano sempre quei 4 metri per controllare la palla. Se io ho 4 metri di distanza dal mio difensore, ho tutto il modo di controllare la palla, stopparlo, farla finta, puntarlo e andargli incontro. Se io invece ho il difensore che è a neanche un metro, ho voglia a stoppare la palla, guardare, girarmi. Ah, guarda, quello là è libero, faccio il lancio di 30 metri. In sostanza, lei dice che hanno fatto poco, che hanno aggredito poco gli attaccanti del Bayern, così, questo è il senso? Sì, nel momento c'è stata un'azione poi che era proprio, si vedeva che Robben era proprio largo, quasi al limite del campo, e Evra era dentro all'area. Al limite della dunque dipende dalla, anche da dove grande. Vuoi andare, da dove vuoi andare ad iniziare l'azione difensiva, dove vuoi andare ad iniziare il pressing, no, in linea di massa. Sì, secondo me molte delle cose che sono successe l'altro giorno non sono state una scelta, ma sono state una costrizione dovuta alla forza supersonica del Bayern. C'è Mughini che mi ha mandato un messaggio a metà partita dicendo tipo mai visto un pressing così, insomma. Io credo che anche gli juventini più accaniti siano rimasti colpiti dalla forza che il Bayern ha mostrato per 60 minuti, dalla prestazione di squadra. Quello che ci diceva Nanu prima era evidente, si è giocato la metà campo della Juve che faceva tantissima fatica ad uscire. Guarda, il Bayern è stabilmente tra le grandi favorite della Champions League, sì. Era la mia favorita l'anno scorso, al punto che gli episodi arbitrali poi voglio sottolineare questa cosa qui, che secondo me è un segno della forza della Juve, cioè non essersi attaccati agli episodi arbitrali l'altra sera, secondo me è una medaglia. Posso dire che l'abbiamo notato anche ieri, mi scusi, non parlo più della puntata di ieri. Anche ieri avevo forse no, non mi ricordo. Ah, quando poi c'è stata la grande sorpresa, quella, esatto, che sono arrivati poi. Ricordi? Sì, sì, sì. Le donne, traffico. Sì. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Tutti convocati. Marco Berinazzo da Sole 24 sì, ore. No, prima, una e una. Il vostro anti-juventinismo imbarazzante, virgolettato, nei 90 minuti non c'è partita, ha detto Lapardo per un 2-2 con l'errore arbitrale a senso unico contro la Juve. Questo, e invece, mi sembra di stare a Juve Channel, Luca da Pesaro, Quindi insomma, proprio mettetevi d'accordo, sentitevi, parlatevi, yes. E poi decidete se questa è Juve Channel oppure anti-Juve. Lo schifoso è che Allegri tanto parla e poi gioca col sistema di Conte, il 3-5-2. Ma Franklin, ma scusa, ma a parte che non è che il 3-5-2 lo può giocare solo Conte, se lo gioca un altro allenatore, non è che c'è il copyright. Cioè, il 3-5-2 ci giocano 200. Poi in realtà ti segnalo che non ha giocato col 3-5-2 l'altro giorno. Ti segnalo che il modulo preferito di Allegri certamente non è il 3-5-2. Lui di solito nelle grandi partite, nelle partite con le grandi squadre, quindi nelle partite europee, gioca con la difesa 4. L'altro giorno l'ha fatto un pochino anche per Asher De Luca, che dice che devo... Come si dice di Brescia? Come si dice? Facciamo un press che c'è Berinazzo? Quanto viene l'Inter al chilo, Marco? No, ce l'hanno chiesto prima. Forse meno del Milan. Ecco, al grosso modo. Ma che cos'è Milan Channel questa trasmissione? Dai però, il copyright del 3-5-2 era di Mazzarri. Ecco. Sì. Quindi devono pagargli le royalties tutte le volte. Conte lo copiò, diciamo. Copiò spudoratamente. Durante un Napoli-Juventus, poi finito in parità al San Paolo. Insomma, da cui poi la Juve ha iniziato a spiccare il volo. Ma cos'è questo Napoli Channel? Dai, però. Copiò pedissequamente il modulo di Mazzarri. Senti, ma raccontami dell'Inter. È in vendita sul serio? Toir sta pensando di vendere il club, sta facendo questi sondaggi, i numeri sono bruttini. Sì, numeri sono bruttini, ma credo che non sia cambiato nulla rispetto a quanto abbiamo detto la scorsa settimana. Insomma, ci sono questi giorni in cui poi ci sono queste notizie, insomma, su cui vanno tutti i giornali, ma sinceramente non mi risultava nulla di cambiato, insomma, rispetto alla scorsa settimana. La situazione la conosciamo. L'Inter di Toir è una società che ha tentato di fare colpaccio, di andare in Champions, di fare tanti acquisti per rilanciare il brand e aumentare il fatturato. Toir ha messo minimo indispensabile, perché è un imprenditore, non è un mecenate, e di conseguenza ha tentato, diciamo, di utilizzare la leva finanziaria, come si fa di solito in altri ambiti commerciali. Il calcio però è particolare, perché per fare un bel prodotto e venderlo devi innanzitutto vincere sul campo, e l'Inter ahimè in questo momento non lo sta facendo e sembra di essere abbastanza può essere che Toir possa iniziare a considerare l'Inter un affare che non funziona. Ad esempio oggi leggevo questo fondo di sconcerti: prestare i soldi alla tua azienda mettendoli a bilancio è un esercizio regolare ma affonda l'azienda. L'essere dall'altra parte del mondo è un diritto ma affondi i rapporti. Ho letto il fondo di sconcerti, insomma, sono d'accordo con quello che lui dice. Peraltro bisogna dire che l'Inter si ritrova in una situazione in cui il suo proprietario, l'acquirente, avrebbe dovuto, per esempio, per eliminare questa zavorra dei debiti, saldarli, e invece li ha ristrutturati, ripeto, sempre in un'ottica finanziaria, tutto legittimo, ma diversa da un'ottica a cui l'Inter magari era stata abituata. E quello lo puoi fare, puoi caricare la società di debiti, come ha fatto per esempio la famiglia Glazer acquistando il Manchester United, ma poi devi porre le basi per vincere e per aumentare il fatturato. Esattamente in questo punto del business plan di Toir è fallito, sta fallendo, e di conseguenza bisogna fare i conti con la realtà. Fare i conti con la realtà significa dover chiudere il prossimo bilancio a meno 30 partendo da meno 140, sì. Bisogna far fronte alla necessità di cassa e bisogna preparare un piano B, un piano C, qualora non si vada in Champions, e di conseguenza capire anche quelli che sono poi i rapporti con Moratti, sì, in vista di un chiarimento anche dell'assetto societario. Da qui l'incarico al Goldman Sachs di guardarsi intorno, cercare partner commerciali, dei soci. E sappiamo tutto, tu lo ripeti spessissimo, insomma, che chi entra poi in una società ci mette soldi, vuole comandare, non vuole stare a guardare. Questo è evidente. Ti rendi conto, Pier, che con tutti i rapporti, con i rapporti che ci sono tra l'Inter e la Juventus, in questo weekend la Juventus, ricevendo l'Inter, avrebbe la possibilità di strappare i suoi sogni di rimonta, eccetera, ma di togliergli anche le mutande, dal punto di vista economico. Perché un Inter fuori, sì, dalla Champions, allo stesso tempo, sarebbe un treno, allo stesso modo, sarebbe, insomma, un treno l'Inter, perso, l'Inter fermando la Juve potrebbe consentire un nuovo sorpasso, forse, del Napoli, che è una partita complicatissima, tra l'altro, contro la Fiorentina. Quindi, insomma, il discorso è abbastanza reciproco. Quello che è abbastanza inquietante è che comunque, insomma, mi sembra che la situazione, no, Berinazzo, non sia proprio, no, io lo floridissima. Lo ripeto da tempo, io ho l'impressione che questo innesto di managerialità che comunque Toir ha cercato di fare non sia completamente riuscito. Lui ha cambiato tantissimi manager, ha portato molti manager, diciamo, di estrazione anglosassone, a partire dall'amministratore delegato Bolingbroke, ma mi sembra che si siano poco adattati al sistema italiano. Da qui, per esempio, la corsa a ingaggiare un direttore generale, Gardini del Verona, che tenga un po' le fila dei rapporti con le istituzioni italiane. A me sembra che l'Inter sia un po' sganciato dal contesto italiano. È arrivato anche Brambilla, no? È arrivato Brambilla, che si occupa di sales and partnership dalla Roma. Una ventina di nuovi manager, però questo ha creato, così come nelle squadre, anche un problema di amalgama a livello aziendale e di progetti. Mi sembra che si vada un po' in ordine sparso, come per esempio anche dire puntiamo sullo sviluppo commerciale e poi dopo ci si affida a Infront. Per carità, Infront ha garantito 10 milioni in più rispetto a quanto l'Inter incassava precedentemente, però per esempio la Juve, che ha chiuso la semestrale con più 30 milioni, lo ha fatto anche grazie al nuovo incremento di alcune voci di entrata, e per esempio si è portato il merchandising in casa, cioè ha assunto delle persone, apre i propri negozi e quindi, diciamo, si struttura come azienda, come grandi club europei. Ecco, se l'Inter aspira a essere un grande club europeo, e l'Inter deve essere un grande club europeo, occorre anche agire in maniera coerente con questi progetti. A me sembra che gli investimenti sulla carta, a voce, ci sia voglia di farli, come facciamo sullo stadio, ma concretamente poi manchino le risorse. E quando Toide è stato chiamato a mettere le mani al portafoglio e a sostenere il club, lo abbia fatto insomma con molte difficoltà, abbia prestato i soldi anziché fare un aumento, certo, di capitale, anche perché Moratti non vuole partecipare a questo aumento di capitale, quindi c'è un problema di tenere in piedi le due quote. Insomma, ci sono tanti equivoci che vanno risolti, e il punto fondamentale, e chiudo, è che in una società si deve capire chi comanda, e chi comanda deve essere presente. Penso anche alla Roma, quando questo viene meno si creano, nel momento in cui ci sono dei problemi, come dire, questi problemi si amplificano anziché essere sfumati. È anche abbastanza normale, ma il vero problema dell'Inter è non aver dato retta al signor Lattanzio, che ti ricordi quella storia che aveva portato, ecco, Etihad, e aveva portato lo sponsor col grano, e invece sono dovuti accontentare del nuovo Pirelli. Magari erano soldi veri, chissà. Quelli di Monopoli. Purtroppo non lo erano. Grazie Marco. Come vedi la partita del Napoli domenica? Duretta. Lunedì. Davvero una bella sfida. Dipende molto da quello che succederà stasera. Insomma, l'entusiasmo per una qualificazione, una delusione per una mancata qualificazione potrebbe incidere molto, secondo me, sugli equilibri della partita di lunedì. Comunque immagino insomma una bella sfida, e il Napoli insomma purtroppo ci arriva con un po' di pile scariche, ecco. Non c'è la brillantezza che c'era qualche settimana fa, però appunto magari una vittoria potrebbe riportare una vittoria stasera, quell'entusiasmo che nelle ultime partite insomma è mancata, è prevalso un po' la paura di affrontare le sfide decisive. Sì, ma non so, a me sembrano un po' stanchi alcuni dei giocatori chiave, come ha ammesso anche Sarri. Grazie Marco, alla prossima. Grazie, ciao. Dunque, ci fermiamo o vuoi sentire due voci su Totti? Sentiamo. Senti, non girate, non cambiate canale, Totti ne parla Insigne. Senta, ma lei ha visto che è successo con Totti? No? Sì. Cosa ne pensa? Ci dica. No, dispiace, perché lui ha fatto tanto per la Roma, ha dato tanto, e sicuramente la società non dimentica queste cose, sicuramente si chiariranno e Totti andrà avanti con la Roma. Speriamo, perché è un grande campione. Sì, ha fatto la storia della Roma, come spero io di fare la storia del Napoli, e sicuramente la società terrà conto e andrà a finire bene. Su Totti ha parlato anche Lapo. Io non ho voglia di entrare nelle polemiche né nelle diatribe. Io quello che mi auguro per il bene del calcio, e per il bene anche, come l'ho scritto sul mio Instagram, di Francesco, che è un grande calciatore, benché io non sia romanista, come ben sapete, gli auguro tutto il meglio di questo mondo. Spero che riesca a trovare un posto in società alla Roma, e spero che le soluzioni tra Pallotta, Spalletti e Totti si trovino per il bene del calcio italiano, ma anche per il bene di Totti, che è un gran giocatore ed è anche un italiano che merita rispetto. Trionfo delle T, Spalletti, Totti, Pallotta. Comunque, vabbè, torniamo dopo il GR e diventeremo Radio Bayern, credo, o Radio Guardiola. Aspettateci. Saluti! Tutti convocati. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. Partite quando hai squadre davanti importanti come il Tottenham sono sempre finali, sono sempre belle per tutti gli intervenienti. Giocare qua contro una squadra che io ritengo al giorno di oggi una delle più 5 più belle squadre in Europa, io credo che sia un'impresa. Comunque abbiamo fatto capire che le possiamo fare queste imprese, il modo come abbiamo proposto anche il calcio, il nostro calcio contro di loro in casa. Credo che non sia importante, credo che sia fondamentale in questo momento passare questo turno e ci siamo presi un piccolo vantaggio per la partita che siamo riusciti a disputare all'andata. È chiaro che è ancora tutto da giocare, è chiaro che credo che la mia squadra abbia la possibilità per fare bene, per passare questo turno. Credo che abbiamo dimostrato di essere all'altezza, credo che abbiamo dimostrato di avere le qualità per poter battere questi avversari insidiosi. Mi sento dei discorsi su Higuain che sono al limite dell'assurdo. Esatto, io dicevo al di là di questi discorsi. Siccome Higuain è considerato un difficoltà perché negli ultimi 7 giorni non ha segnato, allora siccome questo è un fuoriclasse, domani decide lui se gioca, perché se vuol rispondere a queste critiche è giusto che risponda. Domani decide lui se gioca. E invece, come direbbe il maestro Pizzul, stasera si gioca in Europa League. È tutta molto bella. È davvero di una serata di sicuro impatto emotivo. Chi passa? Chi può? Turno più difficile sarà la Fiorentina. Chi passa? Sì. È banale. Direi di sì. Quello più semplice è la Lazio. Spero ovviamente che passino tutte e tre. Lazio e Napoli abbiano buone possibilità. Cosa ne pensi delle parole che ha detto Sarri su Higuain? Che mi piacciono. Ti piacciono? Sì, mi piacciono. Penso che le abbia concordate con lui prima, però mi piacciono perché mi danno il senso, insomma, di... Dal punto di vista mediatico funzionano, nel senso che veramente criticare Higuain per 3 partite è assurdo. È evidente che stiamo parlando di un giocatore che è abituato tutti troppo bene, per cui nel momento nel quale non segna, immediatamente si apre, si accende un campanello d'allarme abbastanza ridicolo. Sono d'accordo. Gianni, lei cosa ne pensa? Buongiorno. Salve, buongiorno. Io penso che sia così, insomma, cioè che sia un po' Higuain indipendente il Napoli. Ah, quindi... come si dipende sempre dai grandi campioni, cioè il Barcellona può essere Messi dipendente o Suarez dipendente. Le grandi squadre sono fatte da tanti grandi campioni e quindi hanno meno dipendenze. Io volevo sapere però, cioè, chiedere un... lanciare un argomento che forse avete affrontato in altre puntate che mi interessa. Volevo sapere qual è la vostra opinione in rapporto a quelli che sono oggi, diciamo, i premi che ruotano intorno alle competizioni europee, Europa League, Champions League, e i premi sponsorizzazioni, diritti televisivi che ruotano intorno al campionato inglese, Premier League, per capire se le dinamiche delle squadre inglesi approcciando le competizioni europee non sono sottotono, proprio perché gli interessi economici che ruotano intorno alla Premier League, anche scalando di poche posizioni, non siano più interessanti. No, anzi. Il contratto firmato l'anno scorso, io adesso poi vado, qui ci vorrebbe Beninazzo, diciamo, io vado così a memoria, però diciamo la sostanza è quella, poi i numeri non me li ricordo. Il contratto firmato dall'Inghilterra, diciamo dai club inglesi con la Premier League, è un contratto che l'ultimo è il più ricco al mondo per distacco. L'Italia, nel famoso contratto del quale si discute molto anche a livello giudiziario, vedremo ovviamente le inchieste a che cosa porteranno, però è il secondo miglior contratto al mondo, quindi ci colloca dietro gli inglesi, nettamente dietro gli inglesi e lievemente avanti agli spagnoli. Questo proprio anche fare la differenza in Inghilterra è la vendita dei diritti sui mercati asiatici. Sia sui mercati asiatici che sul mercato interno. Quindi Inghilterra nettamente prima, poi ci siamo noi che siamo lievemente avanti alla Spagna. Quindi diciamo che questa correlazione non c'è. Il fatto che le spagnole stiano facendo molto meglio delle inglesi non è legato a questo fatto, anzi. Poi sappiamo che in Inghilterra, per esempio, c'è un meccanismo ancora più graduale di divisione fra i club, cioè c'è meno differenza rispetto a quella che c'è in Italia, che si colloca in mezzo, e poi in Spagna è ancora di più fra le grandi e le piccole. In Spagna la forbice fra le grandi e le piccole è ancora superiore rispetto all'Italia. Noi siamo in mezzo e l'Inghilterra invece è quella più, diciamo, più democratica nella ripartizione dei diritti e anche nel meccanismo di scivolo, cioè nella redistribuzione dei diritti televisivi alle squadre che retrocedono, che hanno per un periodo più lungo una sorta di paracadute per ammortizzare la retrocessione. Perdita. Per quanto riguarda l'Europa League, dallo scorso anno l'Europa League è tornata a essere un pochino più ricca. Siamo passati dai 233, qui adesso sto leggendo, quest'ultima cosa la sto leggendo, da 233 milioni di euro del periodo precedente a 381 milioni che vengono divisi fra tutte le squadre, quindi poi alla fine non è ancora un obiettivo economico. No, non è ancora un obiettivo economico, è un obiettivo tecnico, un obiettivo di prestigio, perché insomma comunque è sempre la Coppa UEFA, io l'ho seguita per anni e non è che siccome adesso non la faccio più non mi piace sempre moltissimo, la trovo una competizione che va assolutamente rispettata. Certo, la Champions è un'altra cosa. Ma trovi lo giusto è che ci sia questa forbice? Ma io in generale tra i due tornei io sì. Io no, ma perché io a me non piace, l'ho detto tante volte, il meccanismo che c'è stato negli ultimi anni, cioè la Champions League, che è meravigliosa perché ti dà la possibilità di vedere delle partite top tutti gli anni fra i club più importanti della terra, questa cosa molto positiva, ma di fatto allarga la distanza allarga tra i grandissimi club e quelli allarga medi. Tanto è vero che tu oggi in Italia non hai più un Verona, una Fiorentina, una Lazio che possono stabilmente vincere il campionato. Poi succederà, quelli, glielo auguriamo ovviamente, una Sampdoria, un Torino. Cioè, tu è ovvio che ne riversi la maggior parte sul torneo principale, anche sì, per renderlo. Il concetto è la spettacolarizzazione, la filosofia dietro è la spettacolarizzazione. È chiaro che se tu ogni anno hai poi delle partite fra Barcellona, Real Madrid, Bayern, Atletico Madrid, Chelsea quando era il Chelsea, Paris Saint-Germain e più le italiane migliori, è chiaro che hai delle sfide classiche. Una volta c'era un meccanismo con la vecchia Coppa dei Campioni che sicuro. Se il Leicester vince il campionato, l'anno prossimo in Coppa dei Campioni c'è solo il Leicester dell'inglese, chiaro, capito? Quindi è chiaro. Ovvio che è completamente diverso. Io quando ero bambino mi ricordo che la Coppa UEFA era quasi più divertente della Coppa dei Campioni certe volte, perché la Coppa UEFA aveva due o tre club importanti, quello che aveva vinto il campionato, certo, però secondo, terzo, certo, e quarto. Era una struttura, poteva essere un ovviamente eliminazione diretta. Quindi a me non piace tantissimo questo, tornando al punto di partenza, è perché è un meccanismo ovunque nel mondo, chi più chi meno, che allarga la distanza allarga fra chi distanza, è ricco, sì, e chi è povero, e quindi l'equilibrio è molto raro. Cesare, buongiorno. Buongiorno dottor Ginta, caro Pardo. Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? C'è il signor Cruciani in zona, eh? Andro, volevo due domande veloci, due considerazioni. Riguardo l'arbitro Pierluigi Collina, che ha disegnato questi arbitri nelle ultime partite qui, squadre italiane, a me molto infelici. Non vorrei che ragionasse, che mi ricordo quando faceva lui l'arbitro, la solitanza psicologica al contrario. Non so se vi ricordate di Juventus Perugia, sì, no, famosa... non, guardi, siamo a questi livelli, a questi livelli di importanza dei match e dei contendenti, la sudditanza psicologica io francamente mi sentirei di escludere. Tra l'altro ho avuto una conversazione con Collina, ci siamo sentiti ieri e mi ha mandato anche delle immagini, delle clip sugli episodi, e devo dire la verità che secondo me sul secondo episodio ho cambiato idea, cioè sull'episodio di Bonucci ho cambiato idea, nel senso che alla fine c'è una trattenuta evidente da parte di Lewandowski nei confronti di Bonucci, ma in effetti se uno guarda la primissima parte dell'azione è Bonucci che va a fare una sorta di ostruzione, che va a cercare, sì, il contatto per limitare la velocità di Mandžukić. Sull'altro episodio è un episodio che in diretta onestamente mi era sfuggito, ma non solo era sfuggito a me, era sfuggito anche agli stessi giocatori della Juve che non hanno protestato e agli stessi tifosi. Il fuorigioco geografico è evidentissimo, non credo ci siano dubbi. Però è la classica situazione dove Buffon, che teoricamente è la parte in causa, non protesta, no. È chiaro che questo non cambia il giudizio, però in una situazione come quella dove alla fine dobbiamo capire se il fuorigioco è stato più o meno influente, se il soggetto penalizzato non protesta, mi viene da pensare che evidentemente questo, cioè che lui vedesse il tiro di Lewandowski. Sì, qua è un caso abbastanza simile al famoso caso del gol di Bonucci di Juve Roma 3-2. Bravo, infatti ricordiamo, hanno cominciato a fuorigioco ad accostare le due immagini, tu lo sai benissimo. Insomma, come tutte esercizi, le cose della vita, sarebbe interessante capire le cose senza avere i paraocchi da una parte o dall'altra. È evidente che il calcio e soprattutto il fuorigioco ha una discrezionalità che è tremenda. Però qui, secondo me, non è un dettaglio il fatto che la persona in questione, e cioè Buffon, che è quello... Non protesta. Se non protesta, secondo me, questo vuol dire che lui vede. Sì. Perché altrimenti immagino che avrebbe protestato. Poi, quantomeno distinto. Senti, voglio affrontare con te, con un ospite che stiamo aspettando, un argomento che mi intriga molto. Guardiola che dice quelle frasi, veramente da guru ormai. È una delle giornate più speciale della mia carriera, venire qua e giocare come abbiamo giocato. So che il risultato è sempre quello che conta, lo rispetto tantissimo, ma abbiamo fatto una buonissima partita. Ma se mi dici che mi è sembrato la partita nel complesso di tutta, abbiamo fatto una grande, grandissima prestazione. Non possiamo dimenticare contro che squadra giochiamo, l'ultimo finalista della Champions, 4 scudetti di fila, 15 partite da vittoria di fila. sono molto contento. Forse è la serata più contenta che ho avuto come allenatore nella mia carriera. Dunque, di serate felici Guardiola ne ha avute tantissime, alla fine delle quali ha alzato al cielo un sacco di argento. Gigi Cagni, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ma ciao. Sei guardioliano tu? Ma sai, io sono guardioliano perché io sono andato a vedere Guardiola quando non lo vedeva nessuno, quando non era ancora Guardiola, di cui tutti poi hanno cominciato a parlare. Sono stato a vedere una settimana, sono stato da lui a Barcellona io, perché mi aveva impressionato in una partita che avevo visto a Roma, l'avevo guardato e mi era piaciuto come persona, volevo andare a vedere come era dal vivo e ti dico è numero uno sotto tutti i profili. Ma può un allenatore, Pierluigi, può un allenatore dire è stata la serata, in un ottavo di finale gara di andata, è stata la serata più bella della mia carriera di allenatore? Lo può dire, se si chiama Guardiola può dire tutto, può fare il guru come certamente un guru è stato Mourinho, i grandi allenatori con capacità di comunicazione, evidentemente voleva sottolineare la prestazione. Io penso che ci sia un po' di meccanismo, appunto, di comunicazione quasi da pubblicitario. Detto questo, io capisco e penso che ci sia un fondo di verità in quello che dice, perché l'abbiamo detto prima, l'ha riconosciuto pure Allegri, l'hanno riconosciuto tutti. Per 60 minuti il Bayern ha giocato una partita incredibile, mettendo sotto la Juve e non facendola giocare. Però insomma, poi alla fine secondo me c'è stato anche quell'altro pezzetto di partita, anche quello fa parte della prestazione, secondo me non è un dettaglio. C'è stato il fatto banalmente del possibile rigore che poteva cambiarla, insomma. Io non sicuramente dal punto di vista proprio dell'allenatore quei 60 minuti sono stati un masterpiece, un capolavoro. Sì, sì. Non c'è dubbio, perché la squadra si muoveva in maniera Guardiola enorme. Ha avuto anche un'altra frase che mi ha colpito, Gigi: non alleno con l'ossessione della vittoria. La mia vittoria non è il risultato finale, la mia vittoria passa attraverso altri meccanismi. Questo faccio un po' fatica a capirlo. Dice una mezza verità, perché vedo come allena, capito? Lui quando allena ogni giorno mette una passione, non te lo puoi immaginare, tocca i giocatori, urla continuamente, sempre in mezzo al campo. E lui ha questa grandissima passione, la trasmette, ma quello che ha detto nell'intervista lo capisco, tra la partita più bella, perché era in una situazione di difficoltà la sua squadra. A livello di organico, sì. Lui psicologicamente ai giocatori che hanno giocato, perché non mancavano i giocatori titolari, non poteva dire cose diverse, anzi, lui in questa cosa è bravissimo nella gestione dei giocatori, ma... è bravo psicologicamente, ma è bravo nei comportamenti. Ma ti rendi conto che lui sarà al Manchester City l'anno prossimo? E lo sanno da 2 mesi e lui riesce a far rendere i giocatori in questo modo? Sì, però c'è anche un precedente lì al Bayern, Gigi, con Heynckes licenziato per far spazio proprio a Guardiola ufficialmente a gennaio, che fa il triplete. Sì. Sì, no, ma questo per dirti che lui non ha problemi di dire quello che pensa, la verità, i giocatori lo seguono, ma lo seguono perché è bravo, perché è un allenatore che in questo lavoro secondo me è veramente il meglio. Sotto tutti i profili. Per me Mourinho era bravo esclusivamente sotto l'aspetto di far rendere al massimo i giocatori, della comunicazione, numero uno in quel senso. Campo tatticamente era uno normale, Guardiola invece è una roba fuori dalla normalità. Condividi, Pierluigi? Sì, poi insomma secondo me Guardiola appunto ha fatto essenzialmente il guru. Cioè, da Mocha a Schopenhauer c'è questo racconto della vita come viaggio, come ricerca, come sentirsi vivi, come aver fatto il massimo di quello che puoi fare, e quindi la filosofia del risultato, che non è soltanto il risultato del campo, non è soltanto alzare una coppa alla fine, ma aver dato tutto se stessi per ottenere quel risultato e aver giocato come ha giocato il Bayern per 60 minuti. Insomma, il concetto, se vogliamo, è anche abbastanza vecchio, ma è sicuramente molto suggestivo, e ci credo che Guardiola, che è uno che ha già vinto tanto nella sua carriera, possa godere anche di soddisfazioni come queste, che poi fanno parte del kit, secondo me, di tutti gli allenatori, di tutti i giocatori. Non tutti gli allenatori vincono il campionato, anzi lo vince soltanto uno, però ce ne sono altri che hanno pienamente diritto di essere felici perché sono riusciti a ottenere dei risultati, perché ogni giorno per uno sportivo o per un artista o per chiunque abbia a che fare con un concetto di prestazione, c'è il fatto di superare se stessi, di dare tutto quello che hai. Da questo punto di vista la partita dell'altro giorno sicuramente per il Bayern è una pietra miliare, una pietra miliana, come diceva lì quel comico. Però insomma, quindi secondo me è questo. Poi è ovvio che alla fine non penso che sia stato felice nel vedere la Juve che pareggia o nel pensare che in qualche modo il discorso è ancora aperto, no? No, lui non era felice sicuramente di aver preso i due gol come li ha presi, però li ha giustificati secondo me, e lui sa benissimo la sua forza e sa benissimo che al ritorno ha molte possibilità di vittoria, sapendo che la Juve è una squadra difficile da incontrare, su questo non ci sono dubbi. Sì, certamente. Grazie Gigi. Grazie a voi. Ciao. No, volevo dire una cosa perché è interessante. Mettetevi d'accordo: se i giocatori protestano, non rispettano l'arbitro e si invoca il rugby. Se sportivamente non protestano, allora il fallo non era così evidente. No, io ho fatto un ragionamento, innanzitutto, non sul rigore che c'era, secondo me, ma sull'episodio di Buffon. Perché? Perché l'episodio di Buffon, prendiamo un attimo il regolamento. Geograficamente il fuorigioco c'è. Ok, non c'è nessun dubbio sul fatto che il fuorigioco c'è. Poi io mi fido di Cesari che l'altro giorno ha detto che lui avrebbe alzato la bandierina, quindi probabilmente l'avrei alzata anch'io. Il fuorigioco geografico c'è, però sappiamo che quel fuorigioco geografico, per diventare fischiabile, deve impedire al portiere di vedere il pallone, no? deve disturbare il portiere. Quindi in questo caso, e solo in questo caso, secondo me il fatto che Buffon non protesti è interessante, perché se Buffon non protesta probabilmente lui il pallone l'ha visto, tutto qui. Poi magari invece non l'ha visto e non ha protestato, magari non l'ha visto e pensava che comunque fosse in posizione regolare, quindi non ha protestato. Non sto dicendo che se chi uno non protesta bene, allora va fatto... bene chiaro, però chiaro, in questo caso qui, e soltanto in questo caso qui del fuorigioco geografico, come lo definisce Cesare, di un fuorigioco che c'è dal punto di vista della posizione in campo, ma che bisogna capire se è realmente in grado di dar fastidio al portiere, è qui l'atteggiamento del portiere ha un ruolo, conta secondo me. Soprattutto perché avviene, rigore c'era, perché l'atteggiamento del portiere è istantaneo, istintivo, assolutamente, no? È solo per quello. Luigi Cremona. Buongiorno. Ascolti, io avevo una considerazione, una domanda da farvi, visto voi che siete esperti sulla Juve, chiaramente Juve-Bayern. Io ho visto gli ultimi 30 minuti della Juve, penso che siano gli ultimi più bei minuti giocati dalla Juve quest'anno, proprio una cartina di tornasole di come è andato proprio tutta l'anno, diciamo, della Juve. E diciamo appunto che questi minuti qui, pronto? Sì, siamo qui. Ah, ecco, sono stati i migliori 30 minuti della Juve. Non so cosa ne pensate di questa voi. Stagione, lei dice? Di questa stagione, sì, certo. Secondo me sì. Secondo e poi sì. La domanda era su un discorso di personalità di questa squadra, perché vedo che quando gioca con delle squadre, diciamo, importanti, anche con Napoli è stato così, con la Fiorentina, aspettano proprio a livello tattico, aspettano proprio gli avversari nella propria area. Fu Conte, diciamo, il primo a fare questa diciamo cambiamento con la Roma, il famoso 3-0 del 6 gennaio, proprio che aspettò la Roma e vinse così. È una cosa di è un difetto di personalità o le schemi che sono andati a memoria ed è proprio è un difetto di telefono. Di il telefono mio. Ma questo telefono che fa uscire i beep, me lo regali. Manca nella collezione. Mi manca il telefono con i beep che partono da soli. No, è stata comunque la più bella Juve quegli ultimi 20 minuti. È stata la più bella Juve della stagione. Ma assolutamente. Con caratteristiche diverse, secondo me, rispetto chiaramente al Bayern dei primi 60, perché quella è stata proprio una lezione di gioco e di squadra. Però la Juve nell'ultima mezz'ora ha dimostrato di avere delle cose da poter insegnare al Bayern in termini di grinta, di pressione. E guardate che anche nel primo tempo, in un paio di circostanze, la Juve era riuscita a recuperare con Pogba il pallone e a costruire delle cose interessanti. C'era stata quel mezzo contropiede con Mangio, che quella è la strada è quella. È chiaro che non lo puoi fare per 90 minuti, pensare per 90 minuti di poter andare a pressare alti, a recuperare il pallone al Bayern, ti espone a dei rischi enormi. Però secondo me l'occasione anche a Monaco ci sarà, il Bayern qualche occasione te la concede. È chiaro che il discorso qualificazione è sbilanciato a favore del Bayern. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Una cosa ho notato della partita dell'altra sera. Una sola. No, una cosa principalmente. Dopo 60 minuti mi sembrava di vedere l'Ajax anfetaminico di di Neske, Surbir, eccetera. Poi finalmente sono crollati, perché quei ritmi lì, ogni giocatore della Juve ne aveva quattro intorno, come ha sottolineato il telecronista. E si sa che a quei tempi lì, mi ricordo che addirittura se ne vedevano anche di più, 5-6 giocatori intorno al portatore di palla. Poi un'altra cosa che non mi è piaciuta, io sono un grande estimatore di Buffon, ma quando ha fatto quella mezza parata strana che ha respinto male la palla, sì, ho avuto il primo sospetto. Che non abbia protestato, per carità, lui è uno sportivo, ma probabilmente non se ne è nemmeno accorto. Però il secondo gol che si è preso, noi sappiamo tutti che Robben ha fatto 50 gol in fotocopia in quella maniera, e uno si può aspettare che lui faccia, anche il difensore, che faccia dribbling a rientrare e poi tiri di sinistro sul palo opposto a mezza altezza. Cioè, ne ha fatti 50 gol. Sì, no, sono i gol alla Robben, poi da lì a riuscire a fermarlo, anche i precedenti 49 non c'erano riusciti, no, Pier? Sì, sì, ma assolutamente. Vado squadra la protesta, non protesta, no, insomma, divide molto. Ribadisco, non è protesta che... perché sa che non serve a nulla, oppure il portiere e il giocatore impediva la visuale, il rigore c'è e basta, la protesta non ha mai contato niente. È il gesto istintivo. Ma il rigore, allora, il rigore per me c'è. Ah. Sul gol del 2-0 che io in telecronaca, addirittura dal live, cioè dal momento del play-by-play, quando ho commentato l'azione, ho detto che avevo visto una trattenuta. In effetti, riguardandola bene, secondo me c'è Bonucci che cerca di spostarsi e fa quindi una specie di prima ostruzione. Poi sicuramente Lewandowski usa le braccia per toglierselo di dosso. Magari se vi capita andatevelo a rivedere. Sul primo gol, che è certamente in fuorigioco geografico, non ci sono dubbi, e che era... qui ecco, per esempio, mi sto arrampicando sugli specchi, ma non ci sono specchi, ma che vabbè, comunque Buffon come poteva sapere se Lewandowski era in gioco o meno? Infatti può darsi pure che Buffon non abbia protestato perché pensava che Lewandowski fosse in gioco. Assolutamente, io potrebbe posso soltanto dire Buffon. Che allo stadio nessuno ha protestato, nessuno si era neanche accorto del fuorigioco. Io me ne sono accorto all'intervallo quando è arrivato Cesari dicendo che era un gol da annullare. Insomma, il dibattito aperto, la cosa che mi sembra certa è che il rigore per la Juve ci fosse, perché quel braccio lì è veramente largo. Ci sentiamo domani, divertiti stasera. Senz'altro. Maggioranza assoluta 23:30 Italia 1. Guardami, Sì, ti guardo. Col cappello, eh. Cappello mi ha mandato un messaggio molto carino giovedì scorso, prima di maggioranza assoluta, lo ringrazio pubblicamente. Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Ciao. Signori, alla prossima.